5. Ascolta e controlla. 1. Riceve molte email ogni giorno. 2. Leggono raramente i quotidiani. 3. Conosciamo molte persone in questa città. 4. Parte domani per Roma. 5. Sento bussare alla porta. 6. Stasera dormono in albergo. 7. Tutti seguono il concerto con attenzione. 8. Veste sempre in maniera elegante. 9. Non capiscono il cinese. 10. Spedisce oggi una lettera raccomandata. 11. Preferisce il caffè dolce. 12. Pulisco l'appartamento ogni settimana.